toto kenda etonda sipile. Boto tokenda etonda sipile. Mibali bakoma kobala mibali. Mibali bakoma kobala mibali. Basi pe bakoma kobala mibasi. Basi pe bakoma kobala mibasi. Hola, Maca.